243. Salsiccia con le uova. Le uova e la salsiccia messe insieme pare non si trovino in cattiva compagnia, come non vi si trova la carne secca tagliata a dadi. Se le prime sono sciocche, le seconde sono saporite e si forma una lega che piace a molti, benché si tratti di piatti ordinari. Se la salsiccia è fresca, spaccatela in due parti per il lungo e mettetela a cuocere in un tegame senza unto né condimento, perché ne contiene di per sé stessa. Se è stagionata, tagliatela a fette e levatene la pelle. Appena la salsiccia sarà cotta, scocciate le uova e servitela quando queste saranno rapprese. Per ogni rocchio comune di salsiccia basta un solo uovo, o al più due. Se le salsicce fossero troppo magre, sarà bene cuocerle con un po' di burro di lardo. Se invece di salsiccia si tratta di carne secca, aggiungete un pezzettino di burro e le uova versatele dopo averle frullate a parte.